Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Le intercettazioni di Renzi sul caso Consip pubblicate dal Fatto, l'ex premier al padre, ai magistrati devi dire tutto, quante volte ha incontrato Romeo, un PM apre un'indagine per violazione del segreto istruttorio. Il PIL italiano cresce dello 0,2% nel primo trimestre, quello europeo dello 0,5%, l'antitrust in Italia spinte contro l'apertura dei mercati e tendenze protezionistiche, dice. Disastro ambientale, insetti in manete in Sardegna per la Fluorsid, azienda della quale è proprietario il presidente del Cagliari. Secondo l'accusa si smaltivano rifiuti tossici senza precauzioni. Per il Washington Post, Trump avrebbe rivelato informazioni classificate ai diplomatici russi. La replica di Mosca sono fake news, giornali americani pericolosi. Briatore toglie il marchio ai soci pugliesi dopo il sequestro per abusivismo edilizio del Twiga di Otranto. Sorge su un'area agricola, il beach club là non si può fare. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, così come quella di Radio 24, dal quale andiamo anche in diretta video e vedremo se con questa voce, se questa voce reggerà fino alla fine della trasmissione. Intanto, prima di andare a parlare di quello che succede in politica con queste intercettazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano, c'è una notizia appena battuta dalle agenzie che in parte sembra contraddire quello di cui abbiamo sostanzialmente discusso per una settimana, ossia la sentenza della Cassazione sull'assegno post divorzio, perché è arrivata una decisione sempre della Cassazione che riguarda Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi del mondo ed è rilevante la disparità dei suoi redditi rispetto a quelli dell'ex moglie Veronica Lario. Per questo la Cassazione ha confermato l'assegno di 2 milioni di euro al mese, appunto, in favore dell'Alario. Vedremo se riusciremo a tornarci più avanti su questo tema. In apertura però andiamo sul caso Consip. Il Fatto Quotidiano, l'abbiamo detto, pubblica oggi un estratto del libro di Marco Lillo nel quale ci sono alcune intercettazioni tra Matteo Renzi e il padre risalenti al marzo scorso. In queste intercettazioni Renzi pressa il padre perché dica tutta la verità ai magistrati, gli chiede di dire quante volte ha incontrato Romeo. Da qua riparte la polemica politica, evidentemente non solo quella. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, una telefonata, Simone, che ai contorni di una tragedia familiare. Secondo un'intercettazione del 2 marzo 2017, Matteo Renzi avrebbe chiesto al padre Tiziano di dire la verità sul caso Consip. A pubblicare la questione il Fatto Quotidiano, in cui l'ex premier accusa il padre di dire bugie e di non credergli. Gli domanda se ha visto Alfredo Romeo, deve rivelarlo ai magistrati. Non puoi dire, dice Renzi, che non ricordi. E poi interviene anche su Facebook, è una gogna mediatica, ma dimostra la mia serietà. Chi ha sbagliato pagherà fino all'ultimo centesimo. Mi spiace per mio padre, ma dovevo fare così. È entrato in una storia più grande di lui solo per il cognome che porta. In quella telefonata, ricordiamo, intercettata dai PM, l'ex premier incalzava il padre dopo aver letto su Repubblica l'intervista nella quale si parlava della cena a tre tra Tiziano Renzi, Alfredo Romeo e Carlo Russo, la cena della bettola. C'è poi la questione che riguarda invece Banca Etruria, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, e a questo proposito questa mattina è intervenuto il premier Paolo Gentiloni. Sentiamo. La vicenda della sottosegretaria Boschi è nota, non mi pare che ci siano novità e non ci sono certamente implicazioni per il governo. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Veniamo ai dati sul PIL italiano. Cresce ma poco. L'economia italiana è in ripresa ma molto lentamente. Il PIL nel primo trimestre 2017 cresce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% nei confronti del primo trimestre del 2016. Soffre soprattutto l'industria, meglio i servizi e l'agricoltura. Mentre la crescita acquisita, e cioè dove arriverebbe il PIL nel 2017 in presenza di variazioni nulle da qui a fine anno, è pari allo 0,6%, mentre il governo nel DEF ha stimato un 1,1%. L'Italia, che resta sempre in coda rispetto agli altri paesi europei nell'eurozona, nel primo trimestre il PIL è cresciuto in media dello 0,5%, così anche nell'Europa 28, in testa Finlandia, Spagna, Portogallo, Germania, Spagna, Polonia, peggio di noi solo la Grecia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. A proposito di economia, c'è la relazione annuale del presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, che dice che in Italia non mancano le reazioni contro l'apertura dei mercati e si osservano anche reazioni protezionistiche come quelle dei tassisti verso Uber, mentre le liberalizzazioni sono state lasciate a metà. La concorrenza, spiega Pietruzzella, stimola la crescita economica e favorisce la riduzione delle rendite di posizione e delle diseguaglianze e promuove innovazione e benessere dei consumatori. Si è parlato di crescita e di ostacoli alla crescita. A pesare sull'economia italiana sono ancora e anche le sofferenze bancarie, ossia i crediti non più esigibili. Se ne è parlato questa mattina e se ne continua a parlare al Forum Banca Impresa organizzato dal Sole 24 Ore. Il peggio è passato per quanto riguarda le sofferenze delle banche, anche se necessario del tempo per trovare una soluzione al problema dei crediti deteriorati, i cosiddetti NPL. Dopo l'avvertimento di ieri di Banca Italia e ABI, oggi il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Pagani, in una videointervista all'ottavo Forum Banca e Impresa del Sole 24 Ore, ha rassicurato sul quadro delle sofferenze in pancia alle banche italiane. Penso che con l'inizio di quest'anno, con gli ultimi 5 mesi, la svolta ci sia stata. Non voglio dire che con questo il sistema bancario è completamente pulito, rimane un tema relativo alle banche, alle due banche venete, e rimangono ancora una percentuale elevata di NPL. Unicredit e Intesa, aggiunto, hanno fatto un lavoro di pulizia e non presentano problemi. Le altre banche stanno lavorando con tempi naturali per lo smaltimento. La banca Monte dei Paschi di Siena, infatti, resta in rosso nell'ultima trimestrale. Nelle prossime settimane si dovrebbe giungere alla decisione della Commissione, perché la Commissione deve prendere una decisione formale. Sembra che la banca sia già in sicurezza, come si suol dire, ormai da qualche mese. E secondo Gennaro Casale, partner e managing director di The Boston Consulting Group, il fondo da 20 miliardi per le banche venete e per salvare MPS è una cifra importante, ma non sufficiente. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E mostrano invece qualche segno di miglioramento i dati sull'occupazione dei laureati in Italia. Aumenta, seppur di poco, il tasso di occupazione, aumentano i contratti a tempo indeterminato, come ci racconta il presidente di Alma Laurea, Ivano Dionigi, intervistato da Maria Piera Ceci. Timidi segni più occupazione, più retribuzione, più stabilità di lavoro per chi? Per i laureati rispetto ai diplomati, per cui l'altro messaggio è che laurearsi conviene comunque. Aumenta il numero dei giovani che fa un'esperienza di studio all'estero durante il proprio percorso. Sì, pur non raggiungendo l'obiettivo di Lisbona nel 2020, del 2020 del 20%, ecco, c'è un miglioramento dei giovani che vanno all'estero e questo comporta anche un apprendimento di lingue straniere, l'altro segno più. E poi coloro che invece si laureano in Italia, magari avendo anche fatto un'esperienza all'estero, vanno a lavorare all'estero perché trovano più lavoro e soprattutto sono meglio retribuiti. L'andare all'estero non è solo per lavoro, ma già avviene prima. Questo è drammatico perché soprattutto la contraddizione la sconta il Sud. Se prosegue questa fuga, questo svuotamento, tra 10 anni il Sud sarà un guscio vuoto. Nel senso che questi che se ne vanno non tornano, vanno già e si iscrivono già fuori, poi non trovano lavoro, quindi non è solo un danno per l'università, per l'economia, proprio per il Sud. E questi i dati appunto che arrivano da Alma Laurea. Ci spostiamo adesso in Sardegna, veniamo alla cronaca. Ci sono arresti in un'importante azienda per disastro ambientale. Associazione a delinquere, inquinamento e disastro ambientale. È questa l'ipotesi di reato contestata dal PM della Procura di Cagliari, Marco Cocco, che ha portato all'arresto di alcuni dirigenti dell'azienda Fluorsid di Macchiareddu, zona industriale del comune di Assemini, azienda di cui è proprietario il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, a carico del quale non risulta però nulla. In carcere sono finiti invece il direttore dello stabilimento, Michele Lavanga, il direttore del settore sicurezza, Sandro Cossu, l'ingegnere Alessio Farci e Marcello Pizzalis e Simone Nonnis di un'azienda esterna. Ai domiciliari sono stati messi invece Giancarlo Lecis, così come il titolare di una ditta appaltatrice, Armando Bollani. Indagato a piede libero infine Fabrizio Caschili, direttore commerciale della società. Le indagini sono state condotte dagli agenti del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Sardegna. Un'area di stoccaggio di 5 ettari all'interno della Fluorsid è stata messa sotto sequestro giudiziario. Secondo le accuse, nello stabilimento e nei terreni di Assemini si trattavano rifiuti speciali tossici senza le dovute precauzioni, causando l'inquinamento dell'aria e delle falde acquifere con valori superiori anche di 3.000 volte ai limiti di legge. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono degli indagati per le intimidazioni al presidente del Parco dei Nebrodi. A un anno dall'attentato al presidente del Parco dei Nebri, Giuseppe Antoci, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sono 14 le persone raggiunte da un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. Informazioni di garanzia che in questa fase sarebbero funzionali ad accertamenti tecnici non ripetibili a carico delle persone iscritte nel registro degli indagati. Probabilmente si dovranno fare degli esami. Allora, per la comparazione. Abbiamo qualche problema, come avete sentito, con il servizio degli indagati per l'intimidazione del presidente del Parco dei Nebri. Si tratta di 14 persone. Della vicenda di Antoci ci eravamo spesso occupati, il tentativo appunto di Antoci di estirpare la criminalità organizzata da quelle zone. Torniamo invece a parlare del terremoto e dell'inchiesta sul crollo del campanile di Accumoli. La Procura di Rieti oggi ha notificato la chiusura delle indagini a 7 persone. Era stato uno degli episodi simbolo del sisma dello scorso agosto, il crollo del campanile della chiesa di Accumoli, che in un attimo, quella notte, investì una casa, togliendo la vita a una famiglia intera colta nel sonno. Per quel crollo era stata aperta un'inchiesta che oggi ha 7 indagati. Secondo la procura reatina, i lavori appaltati dalla curia di Rieti, che dovevano servire a consolidare il campanile, di fatto non furono compiuti adeguatamente, né progettati né collaudati. Questo nonostante già all'indomani del sisma dell'Aquila del 2009 la sovrintendenza avesse segnalato un preoccupante indebolimento strutturale. Ad essere accusati di disastro e omicidio colposo, oltre che di abuso d'ufficio e rifiuto di atti d'ufficio, ci sono architetti, ingegneri, progettisti e geometri coinvolti nei lavori, che sarebbero costati solo 800 euro e durati solo mezza giornata. Iscritto nel registro degli indagati c'è anche l'attuale sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, ma non l'allora vescovo di Rieti, Monsignor Delio Lucarelli, la cui posizione è stata archiviata. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci qua, dunque, a tornare alla vicenda della quale ci siamo ampiamente occupati ieri, ossia la vicenda di Isola di Caporizzuto, comune del Crotonese, nel quale c'è uno dei principali, alcuni dicono il più grande CARA d'Europa, centro per rifugiati d'Europa. Ieri l'indagine con molti arresti, 68 arresti, e in manette è finito anche, come sapete, un prete. A gestire questo CARA era la Misericordia, era una confraternita. Si apre dunque uno scenario nel quale abbiamo deciso di andare a fare il punto proprio sulle Misericordie, proprio su queste confraternite. Sentiamo. Con i loro 8 secoli di storia, le Misericordie sono la Confederazione Nazionale di Ispirazione Cattolica più conosciuta nell'ambito del volontariato. Ora trascinata nel fango per il presunto coinvolgimento nell'inchiesta del centro accoglienza migranti di Isola Caporizzuto e per i presunti collegamenti con il clan Arena. È un momento difficile, le Misericordie sono altro, dice il presidente nazionale Roberto Trucchi. Saranno anche altro, ma sono pure un bel business, e non da oggi. L'attività principale della Misericordia crotonese era l'erogazione di prestazioni di assistenza. Ora è un po' di tutto, dalla gestione di centri di formazione alla gestione di grandi alberghi. Porti, noleggio di attrezzature, pulizie, scuole parificate. Dal 2014 le Misericordie gestiscono poi anche il nuovo centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa, affidamento ottenuto con una gara a procedura negoziata indetta dalla prefettura di Agrigento, un tipo di appalto che non prevede un bando pubblico e quindi non se ne conosce il valore economico. Responsabile è il vicepresidente nazionale delle Misericordie, quel Leonardo Sacco, che ora è finito sotto indagine. Ma a Lampedusa le Misericordie c'erano già state dal 2007 al 2009 nella gestione dell'allora centro di permanenza temporanea, dove imposero per un periodo come dirigente Lorenzo Montana, imparentato con Angelino Alfano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora parliamo di TV e di uno scontro tra fiction, se così possiamo dire. Questa sera su Rai 1 ultima puntata di Maltese, mentre parte su Sky 1993. Marta Cagnola, buongiorno. Eh sì, non si ferma il successo delle serie TV italiane, ma anche il trend della qualità delle produzioni è davvero interessante. Allora, partiamo con i numeri. Ieri sera su Rai 1, Maltese, il romanzo del commissario, ha conquistato 6.226.000 spettatori, cioè il 26,5% di share, battendo per esempio Selfie con Simona Ventura su Canale 5, che ha fatto il 15%. Ascolti ottimi, certo non come il boom dell'esordio che era sopra il 30%, ma in risalita rispetto al 23% della seconda puntata. Sono sempre numeri davvero grossi. Questa sera si chiude Maltese, ma sempre questa sera parte 1993, secondo capitolo della saga di Sky, banale dirlo, ma dopo 92 e 1993 1994, che arriverà probabilmente l'anno prossimo, su Sky Atlantic HD e Sky Cinema 1 HD. Certo, i numeri non potranno essere paragonati a quelli della TV generalista. Per fare un esempio, Gomorra 2 fece un esordio record per Sky, però su base generale il 3,65%. Parliamo di pay TV, ma è interessante vedere l'effetto che farà sugli ascolti di Maltese. La nuova stagione di 93 come si apre? Si apre con la scena del lancio di monetine contro Bettino Craxi. Il protagonista Leonardo Notte, cioè Stefano Accorsi, sogna di riscattarsi scendendo in campo con Silvio Berlusconi. Nel cast c'è anche Vinicio Marchioni, che interpreta il ruolo di Massimo D'Alema. Il primo capitolo, 1992, è stato venduto a oggi in circa 100 paesi del mondo. E per ora tutto, Simone. Grazie, grazie dunque a Marta Cagnola. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, mentre siamo sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e poi inizieremo il nostro giro per l'Italia. Andremo anche a parlare della vicenda dei SIC dopo la sentenza della Cassazione, ma inizieremo da Otranto, dove sono stati messi i sigilli per abusivismo edilizio alla struttura che avrebbe dovuto ospitare il Twiga di Flavio Briatore. Lui dice: in Italia non si può lavorare. L'imprenditore fa sapere che non è lui che sta costruendo, ha ritirato il marchio, però la storia è in campo, perché tra l'altro questa struttura la sta costruendo un ingegnere, l'ha progettata un ingegnere che è anche candidato sindaco. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, e sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle intercettazioni di Renzi sul caso Consip pubblicate al Fatto Quotidiano. Abbiamo parlato del PIL italiano, che cresce di appena lo 0,2%, di un'inchiesta che riguarda Cagliari, un'inchiesta per disastro ambientale in 7 immanenti. Ci siamo occupati anche, come avete sentito alla fine, di televisione e delle misericordie. Adesso ci spostiamo, iniziamo il nostro giro per l'Italia partendo da Otranto, e siamo in Puglia. Siamo in linea con il sindaco Luciano Cariddi. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, la vicenda forse sarà capitata sotto gli occhi ai nostri ascoltatori, sui giornali e su internet, perché poi quando c'è di mezzo Briatore queste notizie girano sempre. Si parla del Twiga, il beach club di Briatore, che ha già due sedi a Dubai, a Monte Carlo, e stava per aprire ad Otranto. Anzi, raccontano le cronache dal Corriere della Sera, prendo uno dei tanti giornali che se ne è occupato, a 15 giorni dall'inizio. Inaugurazione, Salento ma anche tutta la Puglia in fermento, maxi cartelloni 6x6 piazzati ovunque col faccione di Briatore. Che cosa succede? Succede che vengono messi i sigilli perché c'è un'ipotesi di abuso edilizio. Innanzitutto una sua valutazione, sindaco, e poi veniamo nel dettaglio ad un paio di cose che mi interessa chiederle. Ma non una valutazione, perché questa ovviamente è giusto lasciarla fare alla procura, che sta valutando un po' tutti gli atti, le carte, i progetti, i lavori che stanno seguendo appunto nel cosiddetto accesso al mare, che poi di Briatore non è, perché comunque è una società di imprenditori locali che investe. Briatore semmai cede il marchio e ci guadagna, coinvolto nella struttura direttamente. Sì, una sorta di franchising del Twiga, per certo, esattamente. Le considerazioni, da sindaco che ormai si appresta a chiudere l'esperienza di 10 anni di mandato e che ha conosciuto questo territorio da sempre, fin dall'infanzia, e quindi conosce un po' la storia e l'evoluzione anche urbanistica, sapendo di un piano regolatore vigente dall'87 che ha inserito queste previsioni specifiche cosiddette di accesso al mare, che consentono in alcune tratti della costa sulla proprietà privata, però non sulla fascia demaniale pubblica che deve rimanere libera, ma sull'area agricola, di poterle destinare ad attività ricreativa, balneare, servizi che facilitano la balneazione, questa previsione è stata attuata sin da subito, dai primi anni 90, e con diverse strutture che sono Quindi mi sembra di dire, mi scusi Caridi, mi sembra che lei stia dicendo che, come dire, questo sequestro, poi per carità andremo a vedere le carte, vedremo che cosa dicono i magistrati, però non è molto fondato, cioè quello che ci sta dicendo lei è che quella è un'area agricola, quindi teoricamente non ci si può costruire, però c'è questa cosa che nel piano regolatore prevede che ci si possano mettere attività ludiche, di servizi ai bagnanti e così via. E quindi se dal punto di vista formale un'area agricola non ci si può costruire, dal punto di vista sostanziale quello che è sempre successo è stato questo negli anni, no? No, anche formalmente. Può costruire, perché è proprio il piano regolatore che in alcune aree che sarebbero agricole, ma a distanza del privato, possono invece essere utilizzate per ospitare questo tipo di strutture e quindi hanno una destinazione compatibile con questo tipo di insediamenti. Allora, insediamenti che sono stati realizzati in questi lunghi 30 anni in diversi tratti di costa con lo stesso strumento. Non dico, cioè lei dice i magistrati ce l'hanno con Briatore, dice lei? No, però sorprende che dopo 30 anni si possa venire a mettere in discussione uno strumento urbanistico approvato dall'allora Consiglio Comunale, adottato da tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute, utilizzato da tutti gli uffici comunali, da responsabili degli uffici tecnici comunali, con tutti i pareri dei vari enti che in questi anni su queste strutture sono stati puntualmente rilasciati favorevoli, oggi si venga a mettere in discussione l'utilizzo di questo strumento, la previsione urbanistica, la adozione poi fattiva sui territori, sul nostro territorio, di questa previsione. Allora, Cariddi, mi faccia venire un attimo alle questioni un po' più spinose, perché il sospetto che un po' di conflitto di interessi da parte sua ci sia, nel senso che ci sono due indagati per questa vicenda. Si tratta di Raffaele De Santis, che è il legale della società Acerra SRL, che è quella che costruisce le strutture, e poi l'ingegnere responsabile dei lavori, che si chiama, non a caso, Pierpaolo Cariddi ed è suo fratello, oltre che candidato sindaco anche lui per la prossima tornata. Appunto. Insomma, no? Un po' di sospetto c'è. Un po' di sospetto viene, che magari non sia proprio soltanto tutta buona fede, però per carità, siccome io ho sempre creduto nella giustizia, sono certo che vorranno dissipare presto questi dubbi, perché la tempistica non è proprio delle migliori. Siccome comunque è stata avviata diversi mesi fa, credo anche stimolata da tutta una serie di esposti effettuati da chi Briatore poi più di tanto non lo condivide ideologicamente come immagine, è bene che si verifichi, è bene che si indaghi, è bene che si porti la verità a galla, ma con azioni del genere sotto ormai il periodo di campagna elettorale in cui Pierpaolo, oltre ad essere mio fratello, è soprattutto il candidato in questa campagna elettorale, mi lascia anche un po' così. Dice i magistrati lo vogliono far fuori, dice. No, assolutamente no. I magistrati no, però voglio dire, un po' di vizio rischia di innescarlo questa tempistica, questa procedura. Capiremo, mi interessa capire anche come sindaco, come amministratore cittadino di questo territorio, se per tutti questi 30 anni abbiamo sbagliato allora di interpretare il nostro piano regolatore, o se il piano regolatore è illegittimo. Chi può stabilire questo ce lo facciano sapere, perché è importante anche per il futuro della nostra città. Sì, e tra l'altro, Caridi, qua chiudo, siamo a ridosso della stagione turistica, quindi sarebbe il caso di capire se questa struttura resta così in forma di scheletro, per così dire, per questo tutta la stagione turistica oppure no. Questo è ancora più preoccupante, ma credo soprattutto dal punto di vista degli imprenditori, non è adesso la mia personale battaglia, immediata chiaro, preoccupazione. Ma questo credo che comunque sia un pericolo per gli imprenditori che propongono l'investimento, che credo sia anche un investimento di una certa cifra, che ripeto non realizzato da Briatore ma dalla società del posto, e soprattutto anche tutte quelle persone arrivano, Cariddi, ad avere un posto di lavoro. Cariddi, chiedo a un ascoltatore, ma cosa c'è a Otranto? Una dinastia? No, non è un discorso di dinastie, che Pierpaolo comunque... I Cariddi, Cariddi primo, Cariddi secondo, mi scusi. No, le dico subito, Pierpaolo era uno del gruppo di fatto che collaborava esternamente all'amministrazione, e il gruppo che in qualche modo ha portato avanti questo progetto con me in 10 anni ha deciso che dovesse essere lui il candidato più utile per dare anche continuità ad una buona azione amministrativa che noi sempre abbiamo realizzato in questi anni. Tutto qui. Allora ringrazio, grazie Luciano Cariddi, sindaco di Otranto, per essere stato con noi. Caterina Mirto, vicepresidente di AIAF, che è l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, per farle commentare rapidamente, perché poi le notizie sono degli ultimi minuti, l'abbiamo data in apertura ai nostri ascoltatori, dopo aver fatto tutto questo cinema sulla vicenda, sulla sentenza della Cassazione che diceva che non era necessario far mantenere al coniuge lo stesso tenore di vita, arriva la sentenza della Cassazione che riguarda Silvio Berlusconi, e questa sentenza dice sostanzialmente che va mantenuto l'assegno da Beata lei, 2 milioni di euro al mese a Veronica Lario, e dice anche che, diversamente dalla fase di divorzio, quando cessano i doveri di solidarietà coniugale, nel caso di separazione l'ex coniuge ha il dovere di dare questa cifra, di mantenere quel tenore di vita, insomma. Sì, assolutamente vero quello che lei dice, in quanto siamo in due fattispecie completamente diverse. La sentenza della Cassazione, la 11.504 del 10 maggio, parla di definizione di rapporti personali e patrimoniali tra ex coniugi, cioè tra persone che non sono più legate da un vincolo coniugale e che quindi non sono più tenute al vincolo della solidarietà, sia materiale che spirituale, quindi ma quindi ragione mi faccia capire, ai sensi della sentenza che abbiamo visto nei giorni scorsi, è possibile che nel momento nel quale arrivasse il divorzio Veronica Lario si possa vedere decurtato sensibilmente l'assegno? Assolutamente sì, è possibile. Sarà poi ovviamente il prudente apprezzamento della magistratura a ritenere, perché il principio dettato dalla Cassazione è che bisogna prima dimostrare di non avere mezzi adeguati e poi si va a guardare il quantum, si dà a stabilire l'importo, e quindi è probabile che in un giudizio di divorzio Berlusconi possa essere esonerato, perché la signora Lario ha sicuramente mezzi adeguati per mantenere quel tenore di vita che è comunque adesso non è più il principio fondamentale per cui si va a riconoscere un assegno divorziale. Nella separazione no, nella separazione è cosa diversa, perché nella separazione ancora rimangono il vincolo coniugale tra i coniugi, e quindi bisogna ancora sostenere materialmente e anche spiritualmente, moralmente il coniuge, colui che è ancora coniuge, non si può definire ex. Io la ringrazio, grazie Caterina Mirto, vicepresidente dell'AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia, per questo primo commento alla sentenza. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, ovviamente come sempre per i mercati. E poi la vicenda di un'altra sentenza di Cassazione, quella che riguarda il SIC, quello che portava il pugnale, la sentenza che si richiama ai valori che gli immigrati devono rispettare. Parleremo con un rappresentante della comunità SIC che ci dice: siamo preoccupati perché fa parte dei nostri, portare questi pugnali, che tra l'altro non hanno la punta e non hanno la lama, fa parte dei nostri doveri religiosi e non sappiamo come fare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli, innanzitutto la vicenda che riguarda Silvio Berlusconi: è stato confermato l'assegno per Veronica Lario da 2 milioni di euro al mese, confermato dalla Cassazione, che dice, come abbiamo spiegato poco fa, che separazione e divorzio da questo punto di vista sono diversi e i due sono ancora separati, non ancora divorziati. Intercettazioni di Renzi sul caso Consip: l'ex premier parla col padre, dice ai magistrati devi dire tutto, quante volte hai incontrato Romeo, lui commenta, si dimostra la mia serietà. Il PIL italiano cresce dello 0,2% nel primo trimestre, quello europeo dello 0,5%, l'antitrust in Italia spinte contro l'apertura dei mercati e tendenze protezionistiche. Disastro ambientale, insetto in manetta in Sardegna per la Fluorsid, azienda della quale è proprietario il proprietario del Cagliari. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Guardate che non è solamente la sentenza della Cassazione sul pugnale Sikh, quella che parla dei nostri valori, ammesso che si scopra quali siano da rispettare, di vicende che riguardano questo pugnale che fa parte delle prescrizioni religiose dei Sikh, se ne parla da tantissimo tempo. Ci fu una diatriba con il Viminale per capire se questo pugnale era da ritenere un'arma impropria. A Vicenza un uomo si era beccato, a Treviso meglio, si era beccato una multa da 23.000 euro perché era andato in ospedale e gli avevano trovato questo pugnale. Dall'altra parte un altro uomo era stato assolto per aver portato il pugnale in fabbrica proprio perché era di religione Sikh. Siamo in linea con Singh Dilbagh, che è portavoce di fatto della comunità Sikh nel Mantovano, che è una delle più fitte, conta 17.000 persone. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, sono Singh Dilbagh. Eccoci qua. Dopo la sentenza di ieri, io so che lei stamattina è andato anche in questura per cercare di capire che cosa dobbiamo fare, perché noi abbiamo, come dire, voi avete la prescrizione, ci sono queste 5K, no? Così si chiamano, se non sbaglia, che sono le vostre prescrizioni religiose, che sono, oltre al pugnale cosa c'è? Allora, oltre il pugnale, il primo K significa il capelli lunghi. Cioè non tagliamo nessun parte del corpo, cioè rimaniamo come il Signore ci ha fatti. Sì. Capelli lunghi, la barba lunga, cioè nel senso non tagliamo mai, sì, tagliamo chiaro. Solo poi... le unghie. E poi il secondo è il braccialetto di ferro, che ce lo portiamo sempre dietro di noi, mm-hmm. che ogni volta quando usiamo la mano, noi, cioè questo bracciale ci ricorda sì. che Dio è sempre con noi e dobbiamo fare le cose per sì. bene. Terzo? E il terzo ci portiamo le mutande lunghe. Mm-hmm. E quarto, guardi, le chiedo solo l'aspetto sì, esteriore, quarto, non quello religioso. Sì, sì, certo. Il quarto invece è un pettine nei capelli, per la pulizia dei capelli. Per la pulizia dei capelli. Allora, che cosa le hanno detto in questura? Stamattina è andato là, ha detto, dopo questa allora, sentenza della Cassazione, che dobbiamo fare? Allora, la questura dice che non si può, perché noi siamo andati a chiedere, cioè io personalmente sono andato a chiedere se si poteva fare un porto d'armi. Perché se secondo le normative italiane viene previsto come l'arma, allora noi chiederemo a porto d'armi. Però essendo che è un'arma bianca, per arma bianca non si può fare le porto d'armi. Ok. Ma sono perciò spuntati adesso, questi pugnali o sono affilati, spuntati? Come sono? Allora, i nostri pugnali non hanno né la punta e non hanno né taglio. Cioè non sono atti da offendere, cioè non servono... Che non servono farci male da qualcuno. Cioè sono delle armi improprie eventualmente, come così vengono possiamo, definite. Possiamo dire armi bianche, nel senso che sono più simboliche che non fa l'arma vera e propria. Questo kirpan per noi significa aiutare i deboli. Cioè questo è uno simbolo religioso che noi ogni volta che lo vediamo noi dobbiamo ricordare che noi siamo i figli di Dio e noi dobbiamo difendere i poveri e non è per una difesa propria. E tanto che noi in Italia siamo circa prima immigrazione è stata negli anni 90 e il tasso di criminalità della nostra comunità è pari a zero. E fino adesso in Italia, dall'anni 90 fino al 2017, non ci sono mai registrati i casi di violenza dove qualche Sikh ha usato questo pugnale. Mm. Cioè, il problema principale è che in Italia, come tutte le cose purtroppo, è scopriamo sempre l'ultimo minuto che c'è un problema, ma noi finora non abbiamo mai avuto un modo di confrontarci. Infatti noi siamo cittadini italiani e noi rispettiamo le normative italiane e rispettiamo la giustizia italiana e rispettiamo anche la sentenza del TAR. Noi non siamo sentenza della Cassazione, cioè, sì. Cioè noi non siamo contrari, cioè noi siamo persone pacifiste e vogliamo l'integrazione. Perciò noi vorremmo, in questi giorni colgo l'occasione del vostro radio, sì. anche per tutti i politici italiani, cioè noi non siamo contrari a qualsiasi cosa. Importante è che confrontarci, sederci a un tavolo e riuscire a trovare una soluzione. Se le normative italiane sì. provvedono che non deve avere taglio, non deve avere la punta. Noi non abbiamo problemi su questo riguardo. Ok, chiarissimo. Cioè, siamo, chiarissimo. È siamo, una, il vostro è tolleranza. È sostanzialmente un appello al dialogo. Io la ringrazio. Grazie a Sing Dilbach, portavoce di fatto della comunità Sikh nel Mantovano. E magari vedremo di girare anche questa vostra proposta di dialogo. Abbiamo ancora pochi minuti, però per cercare, se vogliamo, anche un po' di se qualche ascoltatore, soprattutto nella provincia di Napoli, ha letto la stampa di oggi, magari si è messo un po' di paura, perché a pagina 14 c'è questo titolo che campeggia: SOS per il super vulcano dei Campi Flegrei. C'è una ricerca su Nature che dice l'eruzione è più vicina di quanto non si pensi. Noi siamo in linea con Francesca Bianco, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno Bianco, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Allora, è vero, è così vicina l'eruzione dei Campi Flegrei? Allora, si tratta di uno studio scientifico, importante come tutti gli studi che ci permettono di esprimere quelli che sono i risultati della nostra ricerca, ma è uno studio che ha naturalmente una valenza essenzialmente scientifica, che al momento non ha alcuna implicazione in merito agli aspetti di protezione civile, naturalmente. È uno studio di carattere teorico, si propone un modello che possa in qualche maniera spiegare, è un modello concettuale, non è un modello quantitativo, quindi è un modello basato su concetti, che in qualche maniera possa mettere insieme le informazioni che si riescono ad acquisire dal monitoraggio in continuo delle aree flegree sull'analisi dello sforzo a cui sono soggette le rocce vulcaniche quando la dinamica del vulcano stesso è attiva. Qualche ascoltatore ci dice, mi scusi, è giusto per chiarire, certo. Qualche ascoltatore dice Francesca Bianco non sta rispondendo, non è che non sta rispondendo, è che la scienza purtroppo è molto più complicata di quanto a volte noi stessi non titoliamo sui giornali. Noi la semplifichiamo, è il nostro dovere naturalmente, è il mestiere, certo, che facciamo, certo. Siamo degli intermediatori di informazioni, a volte però, certo, la scienza presenta delle complicazioni un po' più ampie. Beh, non è solo questo, in realtà la scienza è di fatto la nostra capacità di potere in maniera anche critica definire quello che non sappiamo. Allora, a una domanda come quella che ha posto lei, nessuno è in grado di rispondere sì o no. Io quello che posso dire sono le cose seguenti, sì, rispetto a ieri o all'altro ieri o alla settimana scorsa, allora, prima che questo lavoro scientifico fosse pubblicato. Però noi, mi scusi, noi abbiamo un problema, che abbiamo un problema di tempi purtroppo. Allora le chiederei, Francesca Bianco, se voglia tornare con noi o domani o nei prossimi giorni per rifare il punto su questa vicenda, magari con un minimo più di spazio. Siamo andati un po' lunghi, mi scusi, con la vicenda del nostro amico Sikh, il portavoce della comunità Sikh nel Mantovano. Facciamo così, la richiamiamo nei prossimi giorni. Grazie intanto a Francesca Bianco, che ci ha dato un primo chiarimento, per quanto ovviamente parziale, traffico platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.